E fra queste c'erano delle cose interessanti, erano delle vecchie geloso, eccole qui, potete vederle. E ci sono registrazioni della canzonetta addirittura degli anni 50. Quindi adesso vi do un assaggio di questi nastri, canzonetta di tanti anni fa. Sono state per questo riversati con un registratore, un Revox. E siccome il formato era incompatibile, per cui l'abbiamo riversato in digitale sul computer. Eccolo qua, riversato in digitale sul computer e riportato in velocità normale. A tutti, buona visione. Vi andiamo a presentare un'esotica canzone musicata dal qui presente maestro Luciano Meraviglia e raccontata da vivi colori dal signor Arrighini. Pesciaia di 20 anni la vorrei anch'io. Macchinista? T'ha scioltallito tre besto digiuno che manco il fumo poteva assaggià. N'era vienzuta un cogliombolo un nodo e un c'era modo di farlo operà. Toppa Guazzini, Sciapino, Trivella, Ganzo di Vella che venne in città. A vendere l'uva da un'altra provincia, mi restò incinta e si fece sposare. La ruba pane, la tappo di botte, la sette porte che inviava a gridare. Tutto di muscoli si ingavonava e se le sentiva la notte brucià. Chiocco, Mondina, Tanasio, Capocchia, la bagallocchia, la biascia nascè. La bella rocca con l'acqua vi spiava, ci si lavava, indovinelo te. Amici vecchi e nuovi, con le sesso delle tre, sono ritornato qui per dirvi che razza di novicchioria al tempo di mi fa, i via regini andavi non mi sa. Carissimo di nuovo sono qua, giungo col direttissimo dall'università, son professor chiarissimo di lettere, moimè, io devo dolentissimo or confidarti che, poi in fondo ti dirò, perdonami però, la colpa è d'oggi di, ma bene bravo Viscontri che va là, che viva la fascia dell'allegria, te la pensi alla moda tua. Io la penso alla moda mia, col tri che balla, che trullerà l'era, io mi sfogo mattina e sera, prendo il mondo così com'è. Ormai risaputo che il bello è finito, ma se tutta la gente è cambiata, se mi parla in maniera sciograta, io mi faccio una bella suonata e felice ricordo e vedi. dove il viareggio timido di 50 anni fa, col buccellato al comodo e il pozzo da tasà, dove infiniti groncioli per palla panzanè, la cena con balloccioli e un salacchino in tre, che fino han fatto pillori, i brugliori, il ghindò, i semelli dei bamboli, le chiappe dell'angiò, di volte di ciottellore, di ghiande del Perù, di trucioli e di tullore, non se ne parla più, i pippori, le puppore, le toppe sul sofà, che fine han fatto canceri di 50 anni fa, le lendine, le caccole, le grosse, la rulò, le bucche, le cimbraccole, chi mai scordarle può, le zizzore, le chiocciole, fagioli da danà, fra mignori e mignagnore passò la bella età, caracchi e carafugnori il tempo cancellò, i ciottolini e pignori ognuno si scordò, tra piccoli ammennioli han perso ormai la fe, i tangheri e pellioli con tutto il cirie, ha detto bene il meccheri dal 900 in su, viareggio senza caccheri non si sa, non si chiuda, si chiama l'acche, viva la faccia dell'allegri, se la pensi alla moda tua, io la penso alla moda mia, col stric e ballacche, trullera all'era, io mi sto mattina e sera, prendo il mondo così com'è, ormai risaputo, che il bello è finito, ma se tutta la gente è cambiata, se mi parla in maniera sciograta, io mi faccio una bella sonata e felice ricordo vedi. I barbagianni moccoli, mutande da struma, i tangheri, gli zoccoli, palanche da sciupà, va dal barbiere tosi di sfidocchi di mie, piglia bruschine sgrumiti, più ledi non ce n'è, un tirisa più gomiti, goiate non ce n'ho, un tingu più a povomiti, cristeri un telefono, i billori dindellori dal 900 in su, camucioli e pinuglioli non si raccassi in più, lo zifono, lo zenzero, di letto da un po' vi, le valle semi al combalo, un mi fa più a canchi, mi si è sturato un fignolo, il ciuccio non dov'è, o gavino salvandolo, pistellelo un po' te, ho giungogliato un nocciolo al letto devo sta, mi si è impiombato il cocciolo, ho voglia di un ca, va al monte pegni e spignola la giacchettina blu, risciacquiti la gnagnora che non ne posso più, altri che vallacchia e mi valuta.